Che cosa sono i valori critici? Sono i valori ai quali siamo più sensibili. Qualcuno può essere sensibile al valore giustizia, qualcun altro può essere sensibile al valore libertà, al valore creatività. Allora, esistono valori critici, possiamo prendere l'aspetto positivo del valore critico. Tocchiamo il tema di libertà, per qualcuno per cui è un valore critico sentirsi veramente libero lo porta in uno stato di risorsa. Dall'altra parte, la violazione di questo valore innesca in lui uno stato problema o un sequestro emozionale. Quindi potremmo dire che ci sono valori critici che si elicitano soprattutto negativamente, altri che si elicitano soprattutto positivamente e altri bipolari, cioè valori a cui siamo sensibili sia negli aspetti positivi che negli aspetti negativi. Bene, avere una comprensione, la mappa del mondo dell'altra persona sotto questo profilo dei valori critici è veramente fondamentale per sapere come muoversi. Io ho avuto parecchia esperienza con persone borderline o psicotici e ho imparato veramente a cogliere quali sono i loro valori critici e a sapere come muovermi in modo da non innescare i loro sequestri emozionali, a mantenerli in uno stato di risorsa per tutta l'ora di terapia, in modo che fossero pronti a sviluppare risorse e prepararsi ad attività creative.